Italia in controluce. Buongiorno a Radio 24, il momento della nostra Italia in controluce, fatti e personaggi della cronaca. E allora cominciamo da una vicenda che pesa e non poco per l'Italia. Le radici della Fiat Auto sono e resteranno in Italia, ha assicurato Sergio Marchionne presentando il piano per i prossimi 5 anni della casa torinese. Una partita, per la verità, sembra almeno ad oggi chiusa. Quella con Termini Imerese, la Fiat se ne andrà dalla Sicilia. Ma c'è un altro tavolo dove per l'Italia si gioca una partita importante ed è Pomigliano. Se non troviamo l'accordo, sono disposto a non investire, ha ribadito anche questa mattina l'amministratore delegato di Fiat. Ci sono soldi e molti che ad oggi sono destinati alla Campania, ma la produzione della nuova Panda potrebbe essere dirottata in Polonia e l'Italia perderebbe un altro pezzo dell'auto. Andiamo allora a Pomigliano con Paolo Picone. Lo stabilimento Fiat Auto di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, rappresenterà il fiore all'occhiello della casa automobilistica torinese in Italia. E perché ciò avvenga in tempi rapidi è pronto un investimento di 700 milioni di euro che porterà il sito produttivo campano a produrre oltre 1000 auto al giorno. In pratica, secondo fonti aziendali, il piano prevede che entro il 2014 la fabbrica napoletana, dove si produrrà la nuova Panda, passerà da una produzione iniziale del 14% fino a un aumento del 90%, cioè da 30.000 a 250.000 vetture all'anno. Numeri che per gli operai di questa fabbrica suonano come musica oggi. Poi veniamo da 2 anni di cassa integrazione tra ordinari e straordinari, quindi 2 anni di stipendi da fame. Oggi Marchionne ci propone una ripresa dello stabilimento sia a livello produttivo che a livello occupazionale. Noi non possiamo che essere d'accordo, visto che l'unico sostegno che esiste in questa zona è solo lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. In questo momento abbiamo bisogno di lavorare un po' tutti, perché non ti dirò più avanti, parliamoci chiaramente. Stiamo attraversando un periodo brutto di tutte le famiglie. Mi auguro che questo incontro che si è fatto ieri si sviluppi al proprio essere possibile. La nuova missione produttiva, quindi, pur se con richieste dell'azienda giudicate difficili, come 18 turni lavorativi a settimana, è stata accolta dalle tute blu sostanzialmente in modo positivo. E se per le RSU il piano assicura un futuro produttivo ed occupazionale in uno scenario mondiale che vede crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni dell'apparato industriale mondiale a partire proprio da quello dell'auto, per gli operai di questo stabilimento la priorità è tornare al lavoro al più presto. Italia in controluce. Dall'auto di domani all'Italia di domani. Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata della Terra e in Italia che succede? Al di là di iniziative e manifestazioni, al di là delle parole, vi raccontiamo 3 storie vere e concrete. La prima arriva da Milano, che mentre pensa all'Expo sembra rinunciare ad un'anima verde. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Non ci sono più le condizioni per andare avanti. Con queste parole Renzo Piano, l'architetto che doveva trovare una collocazione ai 90.000 alberi chiesti dal direttore d'orchestra Claudio Abbado come compenso per il suo ritorno alla Scala dopo 24 anni d'assenza, si è arreso di fronte al sogno di una Milano più verde. Palazzo Marino, da sempre piuttosto critico verso il progetto che doveva partire nel 2011 e concludersi nel 2015 con l'Expo, gli ha chiesto di trovare uno sponsor perché troppo oneroso. E allora Renzo Piano ha deciso di rinunciare. In una lettera al Corriere della Sera Piano scrive: il sogno è finito, peccato. Per l'architetto del Boburg e dell'Auditorium di Roma, solo per citare qualche sua nota impresa, è tutta colpa di una visione errata del progetto inteso come decorativo anziché volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Più alberi a Milano significa meno smog e temperature più miti quando d'estate l'asfalto brucia. E poi, scrive ancora Renzo Piano, piantare gli alberi in città non è soltanto un gesto d'amore, ma anche un gesto generoso che altri godranno dopo di noi. Peccato che Milano non voglia seguire questa strada. Il commento del comico Enrico Bertolino. Oggettivamente Milano è una realtà difficile in questo momento, che è quella di riuscire a compendiare tutto questo sogno per l'Expo con le manie di grandezza da Caligola che hanno questi nostri amministratori, la necessità di fare questo palazzo della regione è abbastanza, evidente, come si inserisce in un contesto architettonico. E poi a tutto questo si cercava di reagire con una proposta alternativa, con dei giardini che andassero a recuperare le coperture. Io già mesi fa avevo detto che la storia del verde verticale era un palliativo, il tentativo di recuperare il verde in verticale vuol dire che non c'è più spazio in orizzontale. Invece sotto questo punto di vista qua Milano secondo me rimarrà molto penalizzata rispetto a città che, come Berlino ad esempio, che sono state ricostruite anche loro ma che hanno avuto rispetto di lasciare dei polmoni verdi. A Londra, la costruzione dei parcheggi a Londra è da 400 alle 1000 unità che sono dedicate ai portatori di handicap in città, il resto è tutto fatto nella cintura esterna, la banlieue di Parigi a sua volta viene caricata di parcheggi, però vengono potenziati i servizi pubblici. Milano, che parte già avvantaggiata perché ha una rete di servizi pubblici eccellente in termini di metropolitane, che sta ancora crescendo, invece continua a fare parcheggi, alcuni dei quali poi vengono piantati lì, sono dei cantieri fantasma perché non ci sono più i soldi, cioè, vengono venduti ai residenti e poi lasciati lì con il classico cratere. Secondo me questa è una situazione un po' imbarazzante, bisognerebbe riuscire a riportare la città a misura delle persone che la vivono, e dato che, ahimè, che piaccia o non piaccia, che la vivono sono gli anziani anche, perché Milano è una città che non è giovane, cercare di vedere degli spazi per anziani e bambini, i bambini perché sono il futuro, gli anziani perché sono la storia, quelli che sono in mezzo si sono dimenticati il passato e si stanno giocando il futuro. E qui l'unica cosa che cresceranno saranno le cubature di cemento, il cemento quello che genera è muri freddi e ambiti disabitati, sono dei monumenti all'inefficienza e all'incapacità. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. In Campania potrebbero intanto fermarsi le ruspe che dovrebbero restituire il verde a Ischia. È stata confermata infatti l'intenzione del governo di varare un decreto legge che disporrà lo stop degli abbattimenti di abitazioni abusive in Campania fino al 31 dicembre 2011. Maria Luisa Pezzali. Stop per decreto alle ruspe in Campania, lo prevede il decreto legge messo a punto dal governo per il prossimo Consiglio dei Ministri. Uno scandalo, la cambiale elettorale, tuonano le opposizioni, un provvedimento tampone per il cosiddetto abusivismo di necessità che salvaguardi il diritto alla casa, replicano dalla maggioranza. Nella sostanza il provvedimento sospende fino al 31 dicembre 2011 le demolizioni delle abitazioni abusive destinate a prima casa e realizzate prima del marzo 2003. In quell'arco di tempo, cioè coperto dal condono edilizio bloccato in Campania dalla giunta Bassolino, ma con due provvedimenti poi dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale. Nella regione simbolo del cemento selvaggio, dove l'84% del territorio secondo Legambiente è a rischio frana e alluvione, regione teatro negli ultimi mesi di proteste antidemolizioni con incidenti e scontri da Ischia a Torre del Greco, le opere abusive da abbattere a seguito di sentenze definitive sarebbero oltre 66.000, così perlomeno prevedeva il piano d'attacco messo a punto dal pool antiabusivismo. Nessun colpo di spugna, assicura il senatore PDL campano Carlo Sarro, che precisa: gli immobili pericolosi saranno comunque demoliti. Di certo è un decreto che investe quello che è, con espressione anche un po' giornalistica, definita come categoria l'abuso di necessità. Quindi innanzitutto funzione abitativa e poi naturalmente prima casa, nel senso cioè che siamo in presenza di nuclei familiari che ovviamente non dispongono di altri immobili. Qui siamo nella stragrande maggioranza dei casi in presenza di costruzioni che hanno lo standard abitativo dell'edilizia residenziale pubblica, 90-100 metri quadri, 3 vani accessori, questo è lo standard medio. Ogni domanda di condono sarà istruita e su quella singola domanda di condono ci saranno le pronunce della sovrintendenza, dell'autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico e quant'altro, ma consentendo però la stessa opportunità a tutti, così come è avvenuto per i cittadini delle varie regioni italiane. Secondo la relazione illustrativa al decreto legge, la disposizione si riferirebbe a circa 600 casi, troppo pochi per lo stesso Sarro, calcolo ridicolo per il leader dei Verdi Campani, Francesco Emilio Borrelli. Non è possibile un conto di questo tipo, è proprio fuori da ogni possibilità materiale. Io credo che in molti casi sono finte case di prima necessità. Rimango convinto del fatto che se ci deve stare l'allargamento dei cordoni sull'abusivismo, che sia per tutti e non soltanto per alcuni, anche perché c'è un altro elemento, ci rendiamo conto che il primo atto della nuova giunta regionale campana è quella di sanare gli abusi edilizi? cioè non di fare la battaglia contro la camorra, non di intervenire sul sistema della sanità, non di trovare sistemi per trovare lavoro ai giovani disoccupati campani che hanno la media di disoccupazione più alta d'Italia, no. Saniamo gli abusivismi, quindi non solo gli abusivi hanno devastato il territorio, ma hanno devastato la nostra coscienza civile. Ma a livello locale le divisioni di partito saltano, sono molti gli amministratori che si dicono soddisfatti per il decreto, a partire dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, lo sfidante di Stefano Caldoro per la poltrona di governatore, o come Franco Regine, Partito Democratico, sindaco di Forio d'Ischia, il comune più grande sull'isola dove l'ultimo condono ha fatto registrare oltre 9.000 richieste di sanatoria, una ogni due famiglie e mezzo. Un'isola dove in 25 anni sono stati costruiti 100.000 vani abusivi. Io non sono per la illegalità, sono però per il rispetto di una serie di famiglie che sono sottoposte a questo atto demolitorio. Io sono, diciamo, per una pianificazione di un territorio ingessato da 12 vincoli, non ci sono piani urbanistici, non ci sono investimenti per l'edilizia popolare. I due grandi disastri di cui la stampa nazionale parla, che sono Casamicciola del novembre scorso o Montevecchi di qualche anno fa e che hanno causato anche vittime, non hanno assolutamente niente a che vedere con gli abusi sull'isola d'Ischia, ma sono solo oggetti di un dissesto idrogeologico naturale che laddove il territorio avrebbe bisogno di manutenzione e attenzione. L'Italia, insomma, non investe sulla sua anima verde. Non andrà così, si spera, in Sicilia, come ci racconta Giampiero Casagni. Case abusive sono state realizzate in una zona colpita da una fana che nell'ottobre del 1997 lasciò senza un tetto un centinaio di famiglie, distruggendo anche un'antica chiesa. Succede a Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta, nel quartiere Sante Croci. Adesso il sindaco Giovanni Di Martino ha deciso di buttare giù tutto. Abbiamo constatato che purtroppo i guasti dell'uomo non si sono fermati, nel senso che si sono realizzate altre costruzioni, diciamo, all'interno del corpo di frana che è assolutamente vietato edificare. Abbiamo constatato la presenza di qualche decina, diciamo, di alloggi come seconde case, come case di campagna, sicovere mensi, e questo non è possibile. Ecco perché ci stiamo attrezzando perché possano avviarsi le procedure, diciamo, per questa demolizione. Grazie ad una direttiva di protezione civile, intanto a Niscemi, dopo 13 anni, sono arrivati i fondi per la bonifica dell'intera area. Abbiamo avuto così sbloccati i fondi che serviranno per bonificare questa zona, sono circa 1.220.000 euro, e parte di questi fondi serviranno anche come ristoro e indennizzo dei proprietari delle cosiddette seconde case o attività artigianali che allora non poterono rientrare tra i beneficiari. Oggi, a seguito di una nuova ordinanza di protezione civile, questo diritto di indennizzo viene riconosciuto anche ai proprietari delle seconde case. Le ruspe a Niscemi, assicura il sindaco, entreranno in azione a breve. Ma io penso che entro quest'anno questa procedura, diciamo, potrà essere completata. Questa delle case abusive certamente richiede l'avvio di tutte le procedure anche di carattere amministrativo previste dalla norma della repressione dell'abusivismo edilizio. Ci vorrà forse qualche mese in più rispetto alla demolizione invece delle case che allora furono coinvolte dalla frana. E comunque entro l'anno speriamo di poter concludere entrambe le operazioni. E vedremo se il progetto andrà in porto. È tutto intanto anche per oggi per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Un saluto da Anna Migliorati, ci risentiamo domattina alle 6.30.